domani io t'amo, al mondo null'altro io bramo, per far con te vicino a te per la vita, con tuo dai mia, amarsi non è follia, io son per te, tu sei per me, per amare, con tuo hai mio, ma il cuore e la gelosia distrutto, oh vita in tanto domani io t'amo, al mondo null'altro io bramo, tu mami, io t'amo. Voglio tanto bene, o tu vuoi bene a me, ti canterò la bene, non vivo che per te. Vamos.